No, però vabbè, l'occasione come questa è anche il parlarne e dirle, perché per esempio, faccio un esempio, ultimamente c'è stato il ministro Franceschini e ha detto facciamo di Taranto come abbiamo fatto a Torino, cioè proprio si sparano grosso, cioè se ne sparano proprio, cioè quante più stronzate si dicono e in futuro se ne diranno molte di più perché poi appunto Taranto è sul punto medio di passaggio fra Matera e Lecce, no? Perché Lecce è la capitale del Salento, iperinflazionata in estate, importantissima, insomma, chiamata la California del Sud. E Matera sarà la capitale europea della cultura nel 2019. E immaginate, insomma, effettivamente quello che può determinarne in un certo senso appunto come dice, l'abbandono anche dalla parte, cioè lo scoraggiamento da parte delle persone stesse che magari non lottano più per. Certo, è da vivere come un'esperienza. Cioè, si è creato adesso con queste esperienze e con altre, si creano dei buoni precedenti, no? Di riferimento, cosa che prima magari una semplice associazione si limitava a fare un'iniziativa fine a se stessa, avevo fatto l'iniziativa, è andata bene. Invece adesso c'è un po' più di consapevolezza, le iniziative sono parte di un percorso che si ha percezione di essere una cosa un po' più lunga e che ha bisogno di essere raccontato in questa complessità, che non è soltanto la complessità della crisi industriale che viene determinata con un decreto legislativo, ma è anche, cioè quindi non è solo Confindustria che la reclama perché dobbiamo spostare i lavoratori da quella alla parte, però di fatto poi succede che. Faccio un esempio, la questione Ilva, no? Che parlano dei oltre 10.000 lavoratori a rischio, logicamente non parleranno mai degli 80.000 disoccupati della zona, però dall'altro, oppure non parleranno mai degli oltre 30.000 lavoratori a nero o comunque precari che stanno in giro, non diranno mai niente. Quindi effettivamente stiamo parlando di, cioè è bene raccontarle e dire. Questo dicendo la città, appunto la città vecchia, che è una città abbandonata e di conseguenza, insomma, infatti c'è nel libro, ecco, c'è un'informazione tecnica, c'è una mappa, appunto, che vi permetterà, appunto, quando verrete a Taranto, di andare in giro per i Di vicoli, perdervi. di perdervi e non per trovarvi, va bene. Però troverete di passaggio appunto segnati i punti dove ci sono i disegni. E quindi è importante che non ci passi solo con la macchina di lato, come spartitraffico, come è diventato adesso, ma ti avventuri nei vicoli e scopri, magari chiedi alle persone chi ha fatto quel disegno, chi non ha fatto quel disegno, insomma, è sicuramente. Ne escono di situazioni come pure magari cioè, si prospettano magari altre cose, sì.